Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Processo Regeni, richiesta di comparizione per il presidente al-Sisi e il figlio Mahmoud. L'ambasciata egiziana rifiuta la raccomandata. A Trieste la piattaforma online che consentirà a cittadini, professionisti e associazioni di partecipare al piano di valorizzazione urbana. Sono sempre le donne le prime vittime del mobbing sul lavoro, a dirlo i dati del punto di ascolto di Pordenone, più penalizzato il privato. 18 progetti innovativi per la manifattura avanzata, vincitori dei bandi da 3 milioni dell'Università di Udine per il consorzio INEST. Eccellere nello sport senza tralasciare la scuola. Al Trieste Campus, uno spazio per studiare dedicato ai giovani sportivi agonisti. 16ª edizione di Pordenone Scrive, scuola di scrittura creativa di Pordenone Legge. A lezione con Federica Manzon, Francesca Giannone e Stefania Auci. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Nel processo per la morte di Giulio Regeni, i genitori del ricercatore di Fiumicella hanno reso noto che il presidente egiziano al-Sisi è stato citato come testimone al processo in corso a Roma contro gli agenti dei servizi del paese nordafricano imputati, ma l'ambasciata ha respinto il recapito della comunicazione. Era il 3 febbraio 2016 quando il corpo senza vita del ricercatore di Fiumicello Giulio Regeni veniva trovato al Cairo. Dopo alcuni giorni in cui il giovane non dava più notizie di sé e i suoi genitori, i media e l'ambasciata italiana in Egitto lo stavano cercando senza risultato. Una data ricordata dalla madre, Paola De Fendi, nel suo profilo social e che a Roma, nel cuore di un processo in cui si cerca di chiarire la responsabilità di quanto avvenuto, è coincisa con l'invio di una richiesta di comparizione al presidente egiziano, al-Sisi, al figlio Mahmoud, recapitata in ambasciata. Data per la comparizione in tribunale, mercoledì 12 febbraio. La raccomandata, già rifiutata dal destinatario, è stata commentata dagli osservatori come logica conseguenza ai depistaggi nelle indagini avvenuti in Egitto, non ultimo quello della restituzione di effetti personali che non appartenevano al giovane friulano impegnato al Cairo in una ricerca per l'Università di Cambridge, mentre la famiglia Regeni ha ricordato che al-Sisi aveva promesso la piena restituzione di quanto era stato rinvenuto con il cadavere del giovane. Intanto il ministro degli esteri, Antonio Tajani, in missione in Egitto tra 15 giorni, ha commentato che la scelta, se testimoniare o meno, spetta solo ad al-Sisi. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Valorizzazione urbana partecipata la lancia il Comune di Trieste e potranno partecipare cittadini, enti e professionisti. Il Comune di Trieste apre alle proposte dei cittadini per l'elaborazione della variante al piano regolatore generale. Attiva da oggi al 15 aprile la nuova piattaforma partecipativa online che consentirà a residenti, associazioni e ordini professionali di esprimersi su 3 temi: i beni culturali da proteggere, i percorsi e punti panoramici da valorizzare e le aree dismesse e degradate da riqualificare come cave, insediamenti produttivi inutilizzati o edifici abbandonati. L'assessore comunale alle politiche del territorio, Michele Babuder. Alcune aree sono già evidentemente state inserite, il Consiglio Comunale nell'anno 2024 ha approvato gli obiettivi e le direttive del nuovo piano regolatore generale del Comune che deve conformarsi al piano paesaggistico regionale e soprattutto, io tengo a sottolineare, abbiamo inserito anche delle misure di salvaguardia nel novembre del 2024. Le norme introdotte impediscono di costruire per i prossimi 2 anni in 11 aree del Comune, dando così la priorità ad opere di rigenerazione urbana. Al sistema cartografico online si accede direttamente dal sito del Comune. Nella mappa è possibile inserire il punto esatto che si vuole indicare con indirizzo foto e relativa descrizione. Non saranno accettate segnalazioni di manutenzione ordinaria, ma solo quelle volte a dare un contributo all'adeguamento paesaggistico della città. Ancora l'assessore. L'obiettivo non è quello di individuare delle aree verdi dove far tagliare l'erba, è quello di valorizzare delle aree diciamo più grandi e quindi ci sarà un tempo ovviamente delle segnalazioni e quello successivo nel mese di maggio magari anche per valutare ovviamente se le segnalazioni sono pertinenti o no. Trieste, Elisa Marioni, TGR Friuli Venezia Giulia. 18 progetti innovativi dedicati alla transizione verde e digitale per la manifattura avanzata sono i vincitori dei due bandi per complessivi 3 milioni di euro gestiti dall'Università di Udine nell'ambito del consorzio Triveneto Inest per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Trasferire al tessuto produttivo, fatto di PMI, i risultati della ricerca. La sfida, da sempre, per entrambe, aziende e università. In quest'ottica l'Ateneo Friulano ha finanziato con 3 milioni di euro 18 progetti vincitori di bandi nell'ambito del consorzio Triveneto Inest. Udine coordina uno dei 9 ecosistemi dell'innovazione nel Nord-Est, incentrato sui progetti innovativi nella transizione verde e digitale per la manifattura avanzata. Inest è finanziato dal PNRR con 110 milioni di euro, ma al di là dei finanziamenti è il modello, fatto proprio dal progetto, che ambisce ad essere il paradigma per il futuro. Non più universitari consulenti delle aziende, ma collaborazione con prospettive a medio-lungo termine. Angelo Montanari, coordinatore scientifico di Inest. Individuare insieme i problemi rilevanti per l'azienda, interessanti dal punto di vista scientifico, e fianco a fianco ricercatori, personale dell'azienda lavorano a trovare delle soluzioni. Un progetto, per esempio, mette assieme Beantech, Daniele Automation ed Electrolux Professional e ricercatori per sfruttare tramite intelligenza artificiale dati da produzione e da prodotti sul mercato. Claudio Marziani di Electrolux Professional Group. L'obiettivo è quello di predire i malfunzionamenti. È una cosa estremamente ambiziosa. Un altro progetto guarda la produzione di acciaio con meno emissioni rispetto alle tecnologie esistenti. Gianfranco Marconi, co-direttore del Centro Ricerche Danieli. Volevamo estendere questa tecnologia all'utilizzo di acciai speciali al silicio, che sono acciai che si usano per esempio nei motori. L'auspicio dell'assessore regionale al lavoro e alla ricerca, Alessia Rosolen, è che questa esperienza non si concluda con i fondi del PNRR. Dal sindaco De Toni, la speranza che le università possano fare anche da centri di ricerca per le imprese e che ogni impresa abbia dentro di sé una persona in grado di dialogare con gli Atenei. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Si celebra oggi la giornata mondiale contro il cancro, sostenuta dall'OMS e dall'UICC, l'Unione Internazionale per il Controllo del Cancro. Si tratta di un'occasione di riflessione su quanto le istituzioni possono fare per combattere le malattie neoplastiche, ma anche per sensibilizzare le persone, accrescere la conoscenza sui rischi e favorire la prevenzione. In questo servizio i dati che riguardano la nostra regione. Se ammalano di più gli uomini rispetto alle donne, per entrambi i sessi, le diagnosi da tumore sono in leggero calo rispetto agli anni pre-Covid e migliora per tutti la sopravvivenza. È in estrema sintesi quanto emerge dal rapporto 2024 sui tumori nella nostra regione, curato dal registro tumori Friuli Venezia Giulia, affidato alla struttura di epidemiologia oncologica del CRO di Aviano. Nella giornata mondiale contro il cancro, sostenuta dall'OMS, il punto della situazione in regione. 17.164 le nuove diagnosi di tumori maligni in regione nel periodo 2021-2022, in media 8.500 casi l'anno, 4.163 le donne, 4.419 gli uomini, come detto, in calo rispetto al 2018, meno 1,3% per le donne, meno 1,4% per gli uomini. Le donne si ammalano soprattutto di tumore alla mammella, 1.200 casi l'anno, altro tumore frequente al colon retto e del polmone, questi ultimi in aumento. Questi tre tumori rappresentano il 50% delle nuove diagnosi nella popolazione femminile. Negli uomini ci si ammala soprattutto alla prostata, 1.099 casi l'anno. Frequenti i tumori al polmone e al colon retto. In entrambi i casi sono tumori complessivamente in calo e rappresentano il 47% delle nuove diagnosi da tumore negli uomini. Ci si ammala di più nella zona giuliana e in quella montana, rischio ridotto invece anche del 10% nella bassa pordenonese e nell'interland udinese, ma solo per gli uomini e solo per alcune tipologie di tumore. Rispetto alle stime fatte 2 decenni fa, la variabilità all'interno del territorio regionale tende comunque a ridursi nel tempo. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Richieste costanti di sostegno al punto anti-mobbing di Pordenone. La maggior parte degli utenti sono donne impiegate nel privato, ma aumenta anche il numero degli uomini. A pagare il prezzo più alto delle vessazioni sul posto di lavoro sono ancora le donne, anche se cresce il numero degli uomini che si rivolgono allo sportello per chiedere aiuto. Il dato emerge dal punto di ascolto antimobbing di Pordenone, sostenuto dalla Regione e gestito dalla CISL per il Friuli Occidentale. Chiara Tomasella è coordinatrice del punto di ascolto. I dati che sono emersi dall'annualità 24 gennaio-dicembre rilevano una forte presenza femminile, che è un dato per noi diciamo costante, ma il dato vero è che è aumentato molto l'accesso degli uomini, fascia d'età matura, contratti a tempo indeterminato, settore privato. Fascia d'età matura, ma anche al di sotto dei 40 anni, che sono le fasce maggiormente impegnate nella cura dei soggetti fragili, siano essi intesi come anziani, ma anche bambini, soggetti con patologie o disabilità. Il punto di ascolto, che è sostenuto dai comuni di Pordenone e Porcia, ha mantenuto un numero costante di richieste con 111 contatti attivi. Lo sportello si trova a Porcia, presso il distretto sanitario, in via delle Risorgive. Le consulenze sono gratuite e riservate. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Autostrade Alto Adriatico, FVG Strade, EDR di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia testano la centrale unica operativa in Friuli Venezia Giulia, grazie a una serie di accordi sottoscritti che prevedono di garantire il servizio H24 sulle strade di tutta la regione, sabato, domenica e giorni festivi compresi. Si tratta di una sinergia che attualmente non ha precedenti in Italia. Durante gli orari di chiusura degli uffici di FVG Strade e dell'EDR sarà Autostrade Alto Adriatico a rispondere, tramite deviazioni di chiamata su richiesta delle forze dell'ordine, a eventuali emergenze sulla viabilità ordinaria e ad attivare il personale reperibile degli enti e le ditte esterne convenzionate per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità. La cabina di regia sarà il centro radio informativo della concessionaria autostradale, con 17 persone complessivamente formate per il servizio, che proprio in base agli accordi verrà incaricato di allertare personale competente per nevicate, rimuovere ostacoli in carreggiate e ripristinare la strada dopo gli incidenti, ma anche in caso di allerte per cedimenti, frane e smottamenti che necessitano della chiusura della viabilità e per qualsiasi altro evento che possa impedire la circolazione. Nel 2024 il servizio è già stato testato con successo e sono stati 230 gli interventi gestiti dal centro radio informativo della concessionaria per conto di FVG Strade e dell'EDR. La cronaca: la polizia di Duino Aurisina ha arrestato un cittadino bulgaro di 48 anni condannato ad Arezzo ad un mese e 8 giorni di reclusione per furto aggravato. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, quando gli agenti della polizia hanno fermato un'auto a targa straniera il cui conducente è risultato essere un ricercato. E ora uno sguardo al tempo: cielo sereno su tutta la regione, poco nuvoloso su alcune località montane. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Pordenone 7,5 gradi, a Udine 8,5 gradi, a Gorizia 8 gradi, a Forni di Sopra 6,5 gradi, a Piancavallo 4,5, a Tolmezzo 4 gradi, a Tarvisio 2 gradi, a Sappada -5,5 gradi. Sul Monte Zoncolano 1,5 gradi, sul Monte Lussari 0,5 gradi, a Grado e Lignano 8,5 gradi. E ora le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno oggi su tutta la regione, bora in calo nel corso del pomeriggio, zero termico a 1900 metri circa, a 1300 metri sulle Alpi Giulie, poi in rialzo fin sopra i 2300 metri in serata. Conciliare tempi di studio e allenamento dei giovani atleti agonisti grazie al servizio di doposcuola gratuito dedicato a Trieste agli sportivi tra i 14 e i 18 anni. Eccellere nello sport senza tralasciare la scuola, aperto all'interno del Trieste Campus uno spazio per studiare prima o dopo i lunghi allenamenti che per i giovani atleti che praticano attività agonistica nelle società del territorio sono appuntamenti quotidiani. Ci alleniamo 4 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, tranne la domenica in cui giochiamo. Il tempo per studiare è pochissimo. Anche dai voti si vede. Abitiamo comunque a 40 minuti da Trieste, quindi fare avanti e indietro ci richiede altro tempo. E quindi avere un posto dove studiare sicuramente è una grande opportunità. Prima infatti studiavate in piscina addirittura. In piscina, solo che ovviamente cucina non è un luogo adatto per studiare. Ottimizzare il tempo evitando spostamenti, fornire un aiuto concreto alle famiglie e favorire la socializzazione sono solo alcuni degli obiettivi del progetto, reso possibile dal sostegno economico di un gruppo di 10 imprese triestine nello stabile adiacente al campus appena acquistato. Il doposcuola gratuito per il momento è riservato agli atleti tra i 14 e i 18 anni. Maria Teresa Allorusso, responsabile del doposcuola. Imparando a dividere i loro spazi, quindi tempo per lo sport e tempo per lo studio, qui avranno la possibilità di studiare in autonomia, ma avranno la possibilità di essere aiutati da dei tutor solo al momento dell'occorrenza. In programma un ampliamento al piano inferiore dello stabile, i lavori stanno per partire. L'amministratore delegato di Trieste Campus, Andrea Razzi. È stato inaugurato il doposcuola, sono stati i primi 250 metri, entro settembre ci siamo posti di averne praticamente 1000 metri quadri a disposizione. L'obiettivo è aprire il doposcuola a più ragazzi possibile tra i 2000 tesserati delle varie associazioni, ma l'offerta nella cittadella dello sport, nata 6 mesi fa grazie a un partenariato pubblico-privato, sarà presto ampliata con incontri per stimolare lo scambio di idee tra giovani su temi d'attualità. Trieste, Elisa Marioni, TGR Friuli Venezia Giulia. Una nuova produzione del Viaggio a Reim di Gioacchino Rossini animerà il programma della prima capitale europea transfrontaliera nel giugno di quest'anno, con due date, il 19 e il 21, nella rinnovata piazza transalpina. Si tratta di una coproduzione di Piccolo Opera Festival e SNG Opera in Ballet di Lubiana, mentre la direzione dell'orchestra è di Marco Hribernik. Il direttore artistico di Piccolo Opera Festival, Gabriele Ribis, ci ha raccontato come è nato il progetto. Il progetto è iniziato esattamente 4 anni fa, proprio nella stazione transalpina, quando è stato presentato alla direzione artistica di GU2025, e da allora è stata una lunga genesi che porterà il 19 e il 21 giugno alla realizzazione dello spettacolo. È uno spettacolo che rappresenta in pieno lo spirito transfrontaliero dell'iniziativa della Capitale Europea della Cultura, perché mette assieme forze artistiche da entrambe le parti del confine, ma anche oltre, perché ci saranno anche artisti che vengono dalla Carinzia, dalla Baviera, dalla Croazia. Quindi quest'opera, che racconta la storia di un re francese morto in esilio a Gorizia, diventa il pretesto per una grande iniziativa di collaborazione culturale in tutta l'area, chiamiamola, dell'Alpe Adria. Ancora alcuni appuntamenti. Dopo Santa Maria la Longa, il progetto Oltre Confine Ungaretti fa tappa a Campolongo Tapogliano. Alle 20.30 la Sala Civica ospita la seconda delle serate forum, con associazioni, cittadini, attori, musicisti, poeti ed esperti di storia locale, per indagare, raccogliere e raccontare in forma teatrale la vita e l'espressione artistica di Ungaretti nel periodo 1914-19, attraverso la terribile esperienza della Grande Guerra. La serata sarà incentrata sulla presenza storica di Ungaretti nel territorio comunale e sulla lirica Giugno, che il poeta scrisse a Campolongo il 5 luglio 1917. Figlie di Eva, la battaglia delle donne per la vita e la libertà in Iran, Afghanistan e negli Stati Uniti ai tempi di Trump. Ne parla la giornalista e scrittrice Liliana Faccioli Pintozzi in un incontro intervista con il presidente di Bonaventura, Enzo D'Antona, alle 18 al Teatro Miela di Trieste. Il Museo della Comunità Ebraica di Trieste invita ad assistere via Zoom in collegamento con Roma alla lezione su Kabbalah ed ecologia di Shalom Babut alle 17.30, codici per l'accesso sulla pagina web del Museo Carlo e Vera Wagner. L'Associazione Italo-Americana di Trieste invita all'incontro conversazione con Leonardo Buonomo, docente di letteratura inglese all'Università di Trieste, alla scoperta dell'opera di Francis Scott Fitzgerald e del suo capolavoro Il Grande Gatsby, a 100 anni dalla pubblicazione del romanzo, in inglese, alle 18 all'American Corner di Piazza Sant'Antonio Nuovo. Far rivivere, non solo raccontare, la vita contadina del Friuli con lezioni aperte a tutte le età dei mestieri di un tempo, grazie al supporto dei numerosi volontari. Un museo che non vuole essere un museo, ma una cosa viva, con oggetti funzionanti e attività. È Chiase Cocel a Fagagna, ambiente che ricostruisce con materiali originali quella che era la vita contadina di una volta, dall'Ottocento fino agli anni 50. Inaugurata nel 1994, con oggetti raccolti dopo l'ondata di riqualificazione delle case distrutte dal terremoto, si trova in una casa del 600 con tanto di aia, pozzo e un albero di gelso. Il coordinatore di Chiase Cocel, Elia Tomai. È data semplicemente perché avevamo acquistato questo bene per salvaguardarlo e dovevamo in un certo senso riempirlo, no? E allora ci siamo detti, vediamo non di fare un museo perché non aveva senso, ma facciamo una casa, cerchiamo di far rivivere la storia dell'agricoltura fagagnese. Far rivivere, non solo raccontare, questo distingue Chiase Cocel, oltre alla ricostruzione fedele degli ambienti di un tempo, come la cucina, ma anche l'aula di scuola, l'osteria, la latteria e le officine, tutti i luoghi in cui si fanno varie attività, storico è il corso di Merletti, ma c'è anche quello di ceramica e la tessitura, tutto fatto con tecniche e modelli d'epoca, lezioni rivolte sia ad anziani sia a ragazzi delle scuole, che sono gli interlocutori privilegiati di Chiase Cocel. Noi puntiamo molto sulle scuole, ci sono 30 volontari che si alternano per organizzare le visite. In 35 anni i volontari sono stati circa 250, un impegno che richiede conoscenze sempre più difficili da trasmettere. Non è che si impara a fare il contadino è, nasce il contadino nella famiglia, cresce, eccetera. Comunque conosce, ecco, noi vogliamo che conoscano, che capiscono cosa è stata la vita contadina fino a pochi anni fa. Fagagna, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà da oggi al 6 marzo la 16ª edizione di Pordenone Scrive, la scuola di scrittura creativa di Pordenone Legge. In cattedra quest'anno ci saranno Federica Manzon, premio Campiello 2024 per Alma, Francesca Giannone, premio Bancarella per La Porta Lettere e Stefania Auci, la narratrice della saga I Leoni di Sicilia. Affiancheranno gli scrittori Alberto Garlini, ideatore e curatore della scuola di scrittura Pordenone Legge, e Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, fra lezioni frontali e laboratori per una full immersion di 18 ore complessive, che permetteranno di acquisire gli strumenti utili a trasformare la propria ispirazione in scrittura creativa e trame coinvolgenti. Come un romanzo è il tema e filo rosso dell'edizione 2025, fruibile interamente su piattaforma digitale in orario serale dalle 18.30 alle 20.30. Si parte oggi con la lezione di Alberto Garlini intorno alla storia d'amore, un genere di successo che si può contaminare con altri generi, dal giallo al fantasy. Proprio Garlini ci ha spiegato a chi è rivolta la scuola di scrittura e come funziona. Credo che siano destinati a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie tecniche di scrittura, cogliere un po' meglio come è costruita una storia, cercare di capire come la propria storia, perché ognuno di noi ha dentro una storia che vuole assolutamente raccontare, possa essere raccontata nel modo più efficace possibile, e anche se non si vuole scrivere, sono corsi che possono essere dedicati anche alle persone che vogliono comprendere un po' meglio il mondo di storytelling in cui viviamo. Molto spesso ci danno notizie, interpretazioni della realtà che sono puro storytelling, sono create secondo certe regole, hanno certe caratteristiche che le fanno essere efficaci ma non sempre vere. Riuscire a riconoscerle può essere un vantaggio anche nella comunicazione contemporanea. Quindi dedicato a coloro che vogliono scrivere, a coloro che hanno una storia che è dentro il loro cuore, che vogliono capire come farla in modo migliore, ma anche quelli che vogliono capire un po' meglio il mondo di storie in cui siamo avviluppati, e a volte lo subiamo. Come funzionano i laboratori? C'è una prima lezione di 2 ore che è frontale su un tema. Io per esempio tratterò la struttura della storia d'amore, del romanzo rosa o della commedia romantica, come vogliamo chiamarla, e quindi spiegherò un po' come viene costruita, e poi darò un piccolo esercizio finale che sarà quello appunto di immaginare una storia, e poi nella lezione successiva analizzeremo queste storie un po' insieme e daremo dei consigli per vedere cosa funziona, cosa non funziona, come si possono migliorare. Quindi si parte da qualcosa di teorico per poi arrivare a qualcosa di concreto che mette un po' in gioco anche le capacità affabulatorie di coloro che partecipano. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Walter Vidonis, Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Cristina Polselli, dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona continuazione di giornata.